6. Scese di sotto, orientandosi nella luce ancora scarsa che filtrava dalle finestre. Sentiva il bisogno di aria aperta e pulita, aria fradicia di rugiada e pioggia imminente. Nuvole basse, gonfie come otri, rumoreggiavano vicine. Il cane lo accolse nel cortile con un guaito di gioia. Joseph gli accarezzò la testa. Sollevò il secchio del pozzo per bere e lavare via il sonno dal viso. L'acqua gelida lo rinvigorì, correndo sul collo e sotto la camicia. Gli edifici del villaggio erano masse scure che iniziavano a prendere forma. Il fiume scorreva placido poco più in là. I fuochi della guerra non lambivano Quagga, almeno per ora. Voltandosi per rientrare, individuò una sagoma sul limitare dell'orto. Si irrigidì prima di riconoscere sua madre, i capelli bianchi scompigliati dalla brezza. «Margaret!» la chiamò a voce bassa per non spaventarla. «Margaret, cosa fai qui?» La vecchia affiutava l'aria. Doveva essersi alzata dal letto senza che Susanna se ne accorgesse. «Lo senti?» Joseph annusò, ma non riconobbe nulla che non appartenesse ai boschi e ai campi coltivati. «Cosa, Margaret?» Lei ispirò ancora a fondo. «Puzzo di carogna», disse. «Lo porta il vento da est, insieme alla pioggia». Joseph non sentiva niente. «È meglio rientrare, o ti ammalerai?» La vecchia si voltò a guardarlo. «Sei tornato, Joseph?» «Sono tornato». «Perché non mi riporti a casa, allora?» «Presto, Margaret. Adesso è pericoloso. Dobbiamo aspettare». «Sei sicuro?» «Sì, Margaret. Qui c'è puzzo di carogna». «Passerà, appena gira il vento». La vecchia scosse il capo. «Sono i bianchi», arricciò il naso. «Loro non passano». Si lasciò guidare in casa. Susanna era scesa a cercarla e appena li vide sulla soglia, si affrettò a riportare la vecchia di sopra. Joseph sedette davanti al camino annerito. La brace rosseggiava debole sotto la cenere. Prese il mantice e iniziò a rianimarla. Poco dopo Susanna ridiscese le scale e mise a bollire l'acqua per il tè. Joseph percepì la densità dei suoi pensieri, le domande che covava dalla sera prima, quando l'aveva visto arrivare l'ercio di Viaggio e Foresta. «Devo ripartire presto», le disse. «Isaac e Cristina crescono senza padre. Soprattutto Isaac ha bisogno che tu lo guidi. Ha bisogno di imparare e di crescere». «Ha anche bisogno di un posto dove questo sia possibile», ribatté Joseph. «Deve sapere che suo padre combatterà per lui e per i Mohawk». Susanna non riuscì a sollevare lo sguardo dalla teiera. «Io vivo come una vedova». Joseph si alzò e si avvicinò a lei. «Verrà il momento di fermarsi e posare le armi», disse. Lei strinse il bricco, senza versare il tè. «Quando?» Joseph prese il bricco e colmò le tazze. Il profumo denso riempì le narici e destò sensazioni corpose che non provava da settimane. «Quando avremo vinto?»